Davidson, British architect. Tomorrow belongs to me. Mein Hund Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Er ist lecker, Himmel, boom, boom. Ich bin ein Berliner. Buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Mete FM. Chi vi parla sempre dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di Bologna è Claudia Mighty Mau. Siamo qui per una puntata tradizionale del nostro palinsesto stagionale, ovvero arriva la primavera, sebbene un po' stentata, un giorno sì, mezzo no, due no e due sì, di primavera, per parlare appunto del Primavera Sound Festival. Chi ci conosce sa che noi siamo delle aficionadas del festival portoghese, della versione portoghese rispetto a quella catalana di Barcellona, che si svolge da molto più tempo e che cresce in maniera esponenziale ogni anno. Invece dal 2012 hanno pensato di creare una versione più ridotta, più limitata nel numero degli artisti e negli spazi, anche a Porto, nel bellissimo spazio del Parque da Cidade, Porto a nord del Portogallo, ormai meta popolarissima anche per i turisti italiani, insieme a Lisbona. E noi ci torniamo dal 2013, ci stiamo andando ogni anno, e ogni anno appunto presentiamo la nuova edizione del festival. Le differenze cominciano a vedersi già quando aveva compiuto 5 anni, diciamo che aveva cominciato a mostrare una sua personalità distinta magari da quella del fratello maggiore, già distinta perché vabbè, già sei più piccolo, ok, quindi un numero ridotto di artisti in un ambiente anche molto più rilassato e, dobbiamo dirlo, anche più economico, perché questa è una cosa che pesa nelle tasche delle persone. Ma ha cominciato a mostrare delle differenze, nel senso che l'anno scorso per la prima volta ci sono stati alcuni artisti, ricordiamo per esempio Richie Hawtin, Julian Baker e Justice, che hanno partecipato solo alla versione portoghese e non a quella barcellonese, mentre quest'anno sono molti di più appunto gli artisti che suoneranno solo a Porto, e ne parleremo in questa prima puntata, dove parleremo solo della prima giornata che in passato contemplava solo 7-8 nomi nei due palchi principali, dopo magari all'ultimo minuto si aggiungeva qualche DJ per finire la serata ballando. Invece questa prima giornata ha raggiunto i 16 nomi appunto invece dei 7-8 principali, e iniziamo in ordine alfabetico con un talento emergente che viene dall'Australia, si chiama Alex Leahy. Alex Leahy, Melbourne, classe 92, ha fatto un album dopo un EP 2 anni fa, ha fatto un album l'anno scorso, è Love You Like a Brother, e quindi vediamo che sembra che il prodotto di esportazione dell'Australia ultimamente siano delle giovani ragazze lesbiche, perché insomma c'è questo che lo accomuna anche con Courtney Barnett, autrici tutte e due, sia lei che Alex, di testi molto autoironici, molto comici, e aggiungerei anche prodotto di esportazione di lesbiche australiane anche G-Flip, magari musica diversa, però insomma siamo sempre lì, questi nuovi talenti che escono fuori da Down Under e conquistano l'Europa. Penso che stiamo ascoltando Every Day's the Weekend, accompagnato da un video molto comico in cui lei fa l'operaia del controllo qualità di barattoloni di cetrioli sotto spirito, sotto e niente, fa dei gran casini. Molto simpatica, sembra veramente molto simpa. Tra l'altro, questo album, Love You Like a Brother, dedicato a suo fratello, è apparso nelle classifiche di fine anno dei best di Noisy, di Under the Radar, di Brooklyn Vegan, e noi saremo molto curiosi di vederla in azione. Alex Lehi. Passati a Ezra Furman, statunitense di Chicago, classe 86, autore di 5 album, 3 con la sua band Ezra Furman and the Harpoons, e gli ultimi due invece a suo proprio nome, tra cui appunto l'ultimo, Transatlantic Exodus, da cui stiamo, di quest'anno, da cui stiamo ascoltando appunto I Love You So Bad. Questa voce così nervosa che a me ricorda, e magari appunto qualcuno della mia età o anche no, la voce nervosa di Gordon Gano dei Violin Fans. Parlando oggi a Mighty FM della prima giornata del NOS, Primavera Sound Festival, che si svolgerà a Porto come sempre il 7, l'8 e il 9 giugno. Non l'abbiamo detto quali sono i giorni, noi ci siamo già attrezzate come sempre e ci saremo. Anche se appunto, come dicevo, anche i nomi cominciano ad aumentare e io non vorrei che la fatica, anche per ragioni anagrafiche, aumentasse, nel senso che appunto il festival sta comunque crescendo, si dota di nomi che non compaiono a Barcellona. Sappiamo come a Barcellona ci siano i nuovi rumors, le nuove sensation, i talenti confermati, ma anche le superstar, per esempio tipo Bjork e tantissimi altri nomi, che purtroppo non arrivano a porto, perché poi c'è tutta una politica di spartizione dei vari nomi, nel senso che se uno di questi nomi grossi, come è successo in passato con SD Sound System, Radiohead, adesso tipo National o altri, non arriva a porto, è perché ci sono altre realtà festivaliere portoghesi molto anche piene di soldi che se li accaparano, tipo l'Optimus e altri festival che si svolgono in Portogallo in estate. Questa puntata sarà molto snella, nel senso che appunto parliamo solo della prima giornata, visto che appunto i nomi sono aumentati, non riusciamo anche a farci di star dentro in sole due puntate, e siccome noi siamo massimaliste qui a Might FM, ascoltiamo, poi non tutti, magari ci sono anche nella giornata del primo giorno, ci sono diversi DJ che appunto magari mettono solo musica, non hanno neanche produzioni proprie, quindi non li suoneremo, ma appunto ci riseguiamo tutti in ordine alfabetico e siamo arrivati al caro reverendo Father John Misty. So says the dying man, once I'm in the box. Think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious ignorance that will go unchecked, homophobes, hipsters, and 1%, the false famine managed to detect, all with them. Stiamo ascoltando quello che è indubbiamente uno dei pezzi più belli del suo ultimo album, Pure Comedy, dell'anno scorso, che a me non è piaciuto tantissimo perché l'ho visto un po' troppo piatto rispetto invece anche al capolavoro del disco precedente del 2015, I Love You Honey Bear. Josh Tillman ha iniziato con i Fleet Foxes, attività da solo come Jay Tillman dal 2003-2010 e poi come Father John Misty dal 2012. Questo pezzo appunto è Ballad of the Dying Man, credo che fosse stato il primo pezzo diffuso dall'album, anche diverso tempo prima dell'uscita di Pure Comedy. Sarà la terza volta dopo averlo visto tutto all'Optimus. Optimus, ho detto Optimus, al NOS Alive di Lisbona e poi al Locomotive, ce lo ricordiamo molto bene. E quindi ci sarà anche lui, istrione, esibizionista, narcisista, anche un po' antipatico, provocatore, eccellente. E arriviamo alla superstar, al nome più importante della giornata, ovvero... In my head, I play a supercut of us. All the magic we gave off, all the love we had and lost. And in my head, the visions never stop. These ribbons wrap me up. When I reach for you. is just a supercut. In your car, the radio up. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. I'm someone you may be my love. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent overnight rush. Make you crazy over my touch. But it's just a supercut of us. Sicuramente uno dei nomi più attesi dopo aver visto il cartellone Barceloneta era sicuramente Lord. Cosa dire di lei? Ella Maria Lani Jellyfe O'Connor, classe 1996, due album in quattro anni in cui veramente ha superato ogni record. Dopo l'esordio si è preso un momento di pausa, diversi anni, anche perché c'erano grossissime aspettative, e poi comunque la vita di una ragazza giovane che si vede insomma sulle spalle tutte queste responsabilità, melodrama si è fatta attendere, però poi ha sconvolto assolutamente il mondo musicale, finendo spesse volte al primo posto con il miglior disco dell'anno, o comunque penso che fosse in assoluto a livello di voti al secondo posto dopo Kendrick Lamar. E questo stacconetto è stato fatto perché invece di suonare ovviamente Green Light, successione, singolo trascinante dell'album, abbiamo scelto Supercut, però siccome un altro pezzo che a noi ci piace tantissimo è il pezzo di chiusura di melodrama Perfect Places, ce l'abbiamo attaccato. Lord, reginetta incontrastata della prima giornata del Primavera Sound Festival di Porto. Noi chissà, forse proveremo a farci male e arrivare, provare a stare in prima fila per fare le adolescenti impazzite. E non solo io, anzi, soprattutto qualcun altro. What the fuck are perfect places anyway? E adesso la musica cambia completamente. Allora, la differenza fondamentale, ma che c'è sempre stata rispetto all'edizione di Barcellona, a Porto, sì, vabbè, non l'abbiamo detto, noi facevamo riferimento al fatto che dall'anno scorso ci fossero, insomma, anche dei nomi di gran rilievo internazionale insomma, che suonavano su rapporto, mentre comunque da sempre, diciamo, le piccole band, quelle insomma di apertura della giornata, erano sempre state appannaggio di band portoghesi, perché ovviamente il festival propone i talenti locali e soprattutto, per chi non lo sa, ce ne sono tantissimi, ci sono tantissime band bravissime in Portogallo, qualsiasi genere musicale, lo dico sempre, tanto che la FNAC Portogallo ogni anno fa un doppio, a volte anche triplo CD di nuovi talenti, ed è per questo che ci sono sempre stati i gruppi portoghesi appunto all'apertura delle giornate, quando magari appunto non c'è neanche tanta gente. E uno di questi gruppi è Fogo Fogo, è un gruppo di un quintetto che fa musica capoverdiana di base a Lisbona, hanno fatto un EP omonimo nel 2016 e noi adesso, giusto per dare un assaggio, stiamo ascoltando solo una piccola parte di uno dei pezzi di questo EP che si chiama Ben di Fuora. Forging your way, the road is long. We lost our minds on the way to the storm. The storm it does brew, and the wagons do wonder. Hitty, hitty summer, made for it soon. Crossing my bar, we head to the thunder. Don't let her throw. King without crown, tied to the bone, the peace of the land, the peace of the down, down, down. Un altro gruppo che si esibirà sulla Porto sono i Foreign Poetry, di base in Gran Bretagna, sono di base un duo, Moritz Cashbaumer austriaco che vive a Londra e Danny Geffin londinese che invece vive a Brighton. Hanno pubblicato per ora solo questo pezzo molto bello che si chiama Sparks. L'album di debutto arriverà a maggio e l'interesse locale è che, magari appunto è una particolarità, che un gruppo che nasce in Gran Bretagna poi pubblichi invece con un'etichetta portoghese, ovvero la Pataca Discos. Di Foreign Poetry, da questo primo pezzo insomma ho qualche aspettativa, spero che anche il resto del disco sia così bello. abbiamo detto che ci sono anche dei nomi che non ascolteremo di questa prima giornata, come delle successive giornate. Per esempio, in ordine alfabetico, adesso arriverebbe Gerd Jensen, producer DJ tedesco, che è anche radio host, la radio Red Bull, soprattutto remixer, faccia super simpa, sembra un BG molto bello, ma fa soprattutto house e disco, fin troppo disco, e ho visto che anche gli altri DJ che sono stati reclutati per la prima serata fanno appunto tutto un genere molto house, molto disco, revival, e noi non ce la sentiamo di suonare quello che proprio, insomma, proprio non ci piace tanto. E uno di questi nomi chiamati per riempire il dance floor è sicuramente Jamie XX, quello che l'anno scorso si è reso famoso per aver sostituito la Defiance, l'assenza di Frank Ocean. Infatti ho visto anche un manifesto finto dei nomi di Barcellona dove c'era Jamie XX che sostituisce qualcuno, non c'era scritto chi, e insomma messo un po' come rimpiazzo. In questo caso sarà solo a Porto, e appunto immaginiamo che si metta anche lui in quella scia di musica dance. Tra l'altro i suoi set sono scenografati con una immensa disco ball che gli pende sulla testa, ma noi invece vogliamo sentire uno dei pezzi più belli, perché sappiamo che piace questo pezzo, uno dei pezzi più belli di In Color ormai del 2015, che vedeva comunque la partecipazione importante anche di Romy e Oliver, i suoi compari negli XX ovviamente, e questa infatti è la voce di Oliver Sim in Stranger in a Room. Tonight I fell for the outline of someone I've wanted to know. 'Cause here under the blue lights, there's always someone I've wanted to know. With no way of it working back home, no way of it working back home. I come in. Ooh, ooh, ooh. You're just a stranger in a room. Ooh, ooh, ooh. You're just a stranger in a room. Più malinconamente XX, dove non ci sono tanti effetti di macchine e campionamenti, che invece adesso Jamie ha introdotto, insomma la band ha introdotto nella propria produzione come XX. Ma andiamo avanti, sempre un altro DJ che immaginiamo appunto si esibiranno nelle ore piccole della notte, e noi invece questo pezzo l'abbiamo messo perché siamo riusciti a farlo. È giovanissimo, ha 23 anni, anche lui australiano, ma adesso è a Londra, DJ producer dal 2015, sempre appunto produzione virata all'house disco, e questo pezzo si chiama Catching Feelings. Thank you. Touch in Feelings, tratto da un EP del 2017, Pool Party Music, mi pare di 3 pezzi, e appunto gli altri 2 erano veramente troppo oltri per me, invece questo qui mi piacicchia. E voi direte, sì, ma se a noi gli altri pezzi ci piacevano? E io dico che, comunque, per chi non lo sapesse ancora, Mighty FM è una trasmissione autoreferenziale. E anche i soggetti e gli album su cui noi facciamo le trasmissioni, quando facciamo le nostre ponderose monografie, non è perché c'è qualche etichetta o qualcuno che ci manda il disco da promuovere, ma lo facciamo perché semplicemente ci piace molto, come abbiamo fatto per George Fitzgerald l'ultima volta, come forse riusciremo a fare per un'altra artista in stanza esplosiva, provocatoria e sperimentale, che si esibirà a Bologna nel prossimo maggio, ma non lo sveliamo perché qui oggi noi siamo per parlare del Primavera Sound Festival di Porto, 7, 8, 9 giugno, un festival che attira sempre più folle, a parte il popolo portoghese che, come dico sempre, l'attività dei festival, come ho potuto scoprire di prima mano, è un'attività ricreativa proprio familiare. Si vedono spessissimo 3 generazioni, tipo nonni sessantenni, figli 30-40enni e nipotini anche in carrozzina, anche neonati, scorrazzare per il parco da Cidade, e poi sempre più stranieri e anche sempre più italiani che accorrono, anche perché è sempre bello farsi una vacanza, come dicevo, in un posto bellissimo dove si mangia bene, si beve bene e dove i prezzi sono molto più contenuti ancora che in altri posti. E a questo proposito, appunto, ricordo anche a Lisbona Festival Nova Batida a settembre, poi altri festival come appunto l'Optimus, se ancora Optimus, cioè che era il vecchio sponsor che è stato sostituito da NOS anche per il Primavera Sound, ma io sono vecchia e quindi arteriosclerotica e ricordo solo le cose più vecchie e non quelle più recenti. E poi c'è anche il Superbox Super Rock, e poi c'è il Paradiso di Cora dove siamo andati l'anno scorso, insomma un mondo di musica. E portoghese è anche il prossimo nome che ascolteremo, una celebrità locale che comunque anche un seguito, una conoscenza anche al di fuori del Portogallo. Io il suo nome, appunto, infatti lo conoscevo già, è Mullinex con 2 L, perché si chiamava Mullinex dopo la fabbrica, non mi ricordo di dov'è, comunque olandese, belga, quelle parti lì, e ha detto no caro, non puoi usare il nostro nome, lui ci ha aggiunto semplicemente una L. Si tratta di Luis Clara Gomes, adesso pare che si sia stabilito a Monaco, anche lui si esibirà solo a Porto. Noi eravamo al Lux Frage di Lisboa, credo fosse proprio per il lancio ufficiale del suo album del 2015, Swear, dove aveva una super band dove suona anche Shinobi al suo a sua volta anche DJ molto popolare e molto bravo, soprattutto autore di un remix di And I Say di Nicolas Jarre, che insomma anche la versione più conosciuta per quanto mi riguarda. E Mullinex ha fatto un nuovo album nel 2017, si chiama Hypersex, tra l'altro con Shinobi fa anche parte, cioè ha creato l'etichetta Disco Texas, con cui cura una programmazione del sabato su Vodafone FM, emittente appunto della Vodafone, che però in Portogallo suona la musica più indie e alternativa possibile e che trasmette in 3 stazioni, in 3 città, Porto, appunto, Lisbona e Coimbra. Ma questo album Hypersex anche è molto molto molto virato a questo revival disco che speriamo che finisca, e quindi abbiamo scelto un pezzo un po' più innocuo. Si tratta di un featuring, come spesso appunto capita per producer di questo tipo, ce n'è uno con Who you are? con adesso un lapsus pazzesco, Best Youth, anche un altro gruppo portoghese con cui già avevano fatto un pezzo insieme. Questo invece featuring è di Who Ha Who e il pezzo si chiama Painting by Numbers. Ricordiamo anche un altro nome che suonerà solo a Porto, che è abbastanza famoso internazionalmente, che non abbiamo invece scelto di ascoltare, è Motor City Drum Ensemble tedesco, Daniel Plesso di Stoccarda, la Detroit tedesca per Mercedes e Porsche, e quindi lui ha fatto questo paragone perché appunto un amante di house disco. E questa è la musica che fa. Ma adesso passiamo a uno dei nomi per me più attesi di questa giornata, a parte Lord, alla fine insomma. Un disco che amo molto, pezzi che amo molto, si tratta del canadese Rye, ovvero Michael Milosh, anzi in arte solo Milosh. Primo disco nel 2013, Woman, secondo Blood nel 2018, questo pezzo Taste è stato il primo singolo diffuso. Trovo estremamente, già dei pezzi di Woman mi piacevano molto, trovo estremamente delicato e sensuale, come se fosse aggressivamente sensualmente delicato, non lo so, un misto di grandi emozioni. Tra l'altro c'è un bellissimo remix di questo pezzo fatto da Manole Taff, e a questo pezzo singolo Taste abbiamo voluto aggiungere quello che in definitiva è il pezzo che ci muove molto molto di questo album, ovvero Sinful. Why? Feedback dalla rete. Olivia dice: Madonna, non sono mai tornata a guardare di nuovo Chi suona il nostro, c'è pure Rai, cuoricino. E dice che le piace un sacco questo disco, eppure a me. E se non lo conoscete, e questa è la prima volta che ascoltate questa canzone e non vi piace, siete brutti, cattivi e non capite niente di musica. Rush, trovo estremamente intenso, commovente, sensuale. E adesso Shock. Forse per molti anche questo sarà un nome molto atteso, anche perché appunto sembra che sia la next sensation, perché comunque se è vero che da certi tipi di musica c'è un certo tipo di revival, dobbiamo dire anche che in questi ultimi anni stanno uscendo fuori anche tante band eminentemente rock and roll, di giovani appunto sex and drugs and rock and roll, e appunto la sensation attuale sembrano essere questi Starcrawler. Che ovviamente non si sono inventati niente, come si può sentire da questo, che questo riff sembra assolutamente un plagio. Anyway, Starcrawler, quartetto di 21enni più o meno di Los Angeles, hanno appunto pubblicato da poco, dopo un paio di singoli e tanti rumors, quest'album dal nome Starcrawler, all'inizio di quest'anno. Benvenuto a metà della velocità Nirvana. E questo pezzo si chiama I Love LA. Ecco, con il delay dello streaming, Olivia conferma che sono queste quattro note dei Nirvana. Questo pezzo è Love LA e mi sono reso conto che forse esistono molte più canzoni dedicate a Los Angeles che non a New York. Right now we got some new music only here on Gold. E cambiamo ancora genere. Questo inizio che sembra un po' l'inizio di Grooves in the Heart, e anche lui secondo me per un parte del pubblico sarà molto atteso, anche perché nell'ambito della scena rap e hip hop ha avuto più riconoscimenti, insomma, adesso a parte che Kendrick Lamar è insuperabile, però anche il suo album Flower Boy ha avuto degli ottimi voti. Si tratta di Tyler the Creator, questo pezzo si chiama I Ain't Got Time. Boy, I need a Kleenex, how I got this far. Boy, I can't believe it, that I got this car. So I take scenic, passenger walk. Boy, I look like River Phoenix first. Happy birthday! You bitch ass nigga, yep, I'm thirsty. Little shots that you threw, they hurt me. Like, fuck with your bitch ass in the first place. I ain't got time for these niggas, better go and watch it before I have my boys in the bitch looking like a seminar. Talk to you, motherfucker, boy, I ain't got time for these bitches, better throw a clock at these hoes. Got these hoes in this bitch looking for a water hose. Who the fuck you talking to, motherfucker, boy, I turn out to be so proud of me. Tyler Gregory Okoma ha iniziato come fondatore del collettivo hip hop alternativo Odd Future, ha esordito su XR Recordings, quindi non un'etichetta tipica per il rap, nel 2011 con Goblin. con un successo crescente e anche, come è tipico anche degli artisti rap, anche tante controversie. Questo è il quarto album dopo Wolf e Cherry Bomb, è arrivato nel 2017 Flower Boy. Una delle controversie era che appunto spesso nei suoi testi usa insulti omofobi, come appunto l'epiteto faggot, e quindi è stato accusato di omofobia, ma lui ha negato assolutamente queste accuse, dicendo che dico faggot, dico gay, come un aggettivo per descrivere roba stupida, non sono omofobo. Tanto è vero che tra l'altro si dice anche che lui stesso sia gay, quindi insomma, come noi chiamiamo i nostri amici croci. And I'm bread orthodox like I eat kosher. Shout out to the they gave a big loaf for green bread. I'm chilling like a clean soap for that thing old young tea, young from anche se vedo che qua uno delle controversie è stata la risposta a Tegan e Sara, appunto indie pop duo di sorelle lesbiche assolutamente dichiarate, tra l'altro sono andate anche in tour con Alex Lely, che abbiamo sentito all'inizio, che criticavano i suoi testi, e gli ha risposto insomma, se Tegan e Sara hanno bisogno di insomma me lo dicano che io glielo do, una cosa del genere molto simpatica. Finisce appunto il pezzo di Tyler the Creator e finiamo sempre con un po' di sano rock, un po' più classico, proprio più americanone. Comunque c'è da dire che almeno Tyler the Creator si identifica come ateo e fa dei testi assolutamente antireligiosi, mentre quelle che stiamo ascoltando, e siamo arrivati alla fine di questa brevissima puntata per la nostra media, si tratta delle Waxahachie, nome preso da Waxahachie River in Alabama, mi sembra. Anzi, Waxahachie Creek, quindi più piccolo di un fiume, ruscelli. Progetto nato nel 2010, fondato da Kathy Crutchfield, che vede anche la presenza di sua sorella, è un quartetto di ragazze. Dal 2012 hanno fatto 4 album, l'ultimo del 2017 si chiama Out in the Storm e questo pezzo si chiama Silver. Dovere di cronaca, abbiamo dimenticato di nominare un altro nome, sempre un DJ portoghese, Tiago, che quindi allieterà le ore della tarda notte e prima mattina del primo giorno. Vista la tendenza musicale dei DJ di questa giornata, penso che andremo a letto presto e sarà un bene, insomma, come le prime volte che insomma il primo giorno era un po' di riscaldamento e dopo non ci si stancava troppo per affrontare le molto più corpose giornate del venerdì e del sabato. Abbiamo parlato della prima giornata del nostro Primavera Sound Festival di Barcellona, sì, di Porto, e continueremo a farlo nelle prossime settimane parlando ovviamente delle due successive giornate. e finisce così. Ciao da Claudia Matiumano, alla prossima.